La foglia degli altri, sì, è nato da un bando, che è il bando Migrarti, che appunto era un bando che speriamo che adesso rinasca, perché era stato istituito, voluto da Franceschini, e poi dopo ovviamente il governo della Lega l'ha abolito. Un bel bando in cui appunto che finanzia, del Ministero, che finanzia progetti di cortometraggi di finzione di tipo documentaristico, eventi legati al tema della migrazione, dell'integrazione razziale, eccetera, eccetera, in particolare concentrato sulle seconde generazioni. E io ho partecipato con un progetto in cui parlo di mio padre, che è stato uno dei primi etnopsichiatri italiani, cioè quegli psichiatri che sono occupati di affrontare il problema del disagio di persone che arrivano da altre culture. È un problema molto da tanti anni, molto vivo in Francia, dove c'era appunto una tradizione di, appunto, coloniale, quindi uno problema più presente. In Italia negli anni 90 mio padre lavorava sul territorio, comincia a affrontare questo problema con l'arrivo dei primi migranti, in particolare africani, e io ho raccontato la sua storia. Per la prima volta mi sono messo in scena, l'ho raccontato io in prima persona, ho raccontato questa esperienza arrivando fino all'oggi, con appunto allora c'erano soprattutto problemi di accogliere persone di prima generazione, adesso invece il tema centrale anche nel campo della psichiatria è diventato quello delle seconde generazioni. Certo, hai parlato appunto dell'esperienza di tuo padre e della sua carriera professionale, ma nel tuo corto arrivi a una risposta alla domanda di tuo padre se esista appunto un diverso modo di curare i disagi mentali rispetto alla diversa cultura di appartenenza? Sì e no, è un discorso, poi appunto qui quando entriamo in un fatto tecnico, però insomma ho lavorato, cioè, con mio padre, ho ascoltato, ho fatto il film, per cui, però sì, il punto di partenza è che la relazione terapeutica, per cui l'ascolto è il primo tema, e soprattutto, come dice anche nel film Giancarlo Rigon, che è un collega di mio padre, fare una buona prima accoglienza è fondamentale, perché ovviamente nei casi appunto di migrazioni traumatiche tutti arrivano con dei traumi, delle ferite, che però possono essere curate facilmente con una buona accoglienza. Se non si fa una buona accoglienza, i problemi aumentano, quindi è importantissimo per semplificare. Quindi una buona accoglienza, l'ascolto. Poi mio padre ha scelto sempre di non entrare nelle altre culture, ma di accogliere, ascoltare, dialogare, e ha tantissimi casi di persone che poi dopo a un certo punto hanno detto: adesso vado, torno a casa e vado a fare il passo dallo stregone, da quello. Però diciamo che ha accompagnato, ascoltato, ha scambiato e ha, insomma, in questo modo curato tante persone. Poi c'è il tema della terapia di gruppo, ma questo forse è un po' troppo tecnico, comunque nel film ne parlo. È una modalità che è stata elaborata, eccetera, eccetera. Comunque questi sono più o meno, direi, i temi. Certo, dei temi delicati, quanto, se mi permetti, a mio parere inesplorati, almeno in Italia, non so se sei d'accordo. Sì, l'ho fatto con passione questo lavoro anche per questo, perché è un problema centrale che però non è stato molto discusso. L'altra, una cosa bella del bando Migrarti, secondo me, è che appunto vuole porre l'attenzione non sull'emergenza, che è un grande tema però molto molto discusso, ma appunto su esperienze già di integrazione, di condivisione. Il mio film era un po' al limite della tematica, perché non è esattamente centrato sulle seconde generazioni, però credo che sia stato finanziato, perché parla appunto, affronta un argomento molto importante di cui si parla poco. Io sono sempre stato molto affascinato dall'esperienza di mio padre. Quando c'è stata questa occasione ho cercato di raccontarla e di approfondirla, perché è molto molto interessante. Cioè, poi il film è breve, un quarto d'ora, perché ho fatto delle scelte radicali, però insomma anche io trovo che sia molto interessante. In chiusura ricordiamo che il tuo corto partecipa appunto al Terra di Tutti Film Festival, e vogliamo ricordare quando e dove verrà proiettato nell'ambito del festival? Allora, viene proiettato al Cinema Galliera giovedì 10, non vorrei sbagliarmi, vado a memoria, alle 19:30. Io però all'estero non ci sono, ma d'accordo col festival, con mio padre, andrà lui a presentarlo, quindi sarà una bella occasione anche per chi è interessato, per incontrare anche... A volte ho fatto dei bei dibattiti in cui però si va molto sul tecnico del suo lavoro, invece questa volta ci sarà lui direttamente, per cui credo che sia una buona occasione.